il modulatore, l'apparato ha un po' di fatica, capito? Hai visto l'altro giorno quello che ti ho fatto vedere, quell'apparato per la ricezione della telescrivente, quello degli anni 60, forse dai, diciamo anche di più, anni 70, 70-80, perché era già transistor, facciamo 70-80. Quelli lì erano tutti rinforzati per poter mantenere la potenza. Ma che potenza utilizzano quelli lì? Quelli hanno una minima potenza? Dipende dal servizio che devono fare. E poi lavorano via cavo, diciamo via linea, però un po' di potenza gli devi dare per superare i limiti di peri. No, perché via linea, anche via radio. Tanto la stessa cosa, se passa la linea passa anche per radio. Allora io so che non ci ho fatto caso se via radio o se via rete, linea. Bisognerebbe controllare, già te ne accorgi, già si vede. Sì. Puoi già andare a ricevere telex e non lo stai facendo, pensandoci bene. Stai facendo, io sto aspettando la famosa chiavetta, ci siamo fermati l'altro giorno con il S2000. Infatti ce l'hai già, c'è il 2000 che ha tutte le possibilità, a tutt'oggi dopo una settimana non sappiamo. Sappiamo che riceve e che quindi puoi fare ascolto, non sappiamo se e come trasmette, perché se dovesse trasmettere anche disturbi insieme alla modulazione, e allora bisogna provvedere a fare una separazione di linea. Allora, stamattina mi hanno mandato il messaggio il ministero che sono stato idoneo, sono andato esattamente, ho parlato stamattina con l'ingegnere, con il dottor Canavese, e mi ha detto che ci sentiamo lunedì, così mi manda quello che... Comunque mi ha confermato che bisogna rifarlo sempre al ministero, non via ispettorato, per il discorso dell'autorizzazione nominativa, perché c'è stata una normativa nuova che dice se ne occupa direttamente l'ispettorato, siamo ancora in fase sperimentale, bisogna mandarla a Roma. Ma per cosa? Per la licenza? Per l'autorizzazione generale. Quello sì. Ma guarda che anche i numeri di telefono sono tutti su Roma adesso. Se tu ti guardi il sito di Cagliari, i numeri non ce ne sono. O meglio, se ci sono, sono quelli 06 di Roma. Oramai stanno smantellando molta roba, guarda. No, già ti rispondono con lo 070, rispondono, però la normativa ha detto che adesso per la facilitazione burocratica eccetera eccetera, prima dovevi chiedere il nominativo e l'autorizzazione generale al ministero. Il ministero invece adesso è collegato online, direte vabbè, lo era anche prima, all'ispettorato territoriale, che l'ispettorato territoriale ti trasmetterà direttamente insieme alla patente anche il nominativo e l'autorizzazione generale. Invece mi ha detto sì, è così, però ancora siamo ancora aggiornandoci, dove se non ha ne gara in parole povere. Zette mala! C'hanno, dai. Un attimo, vediamo i casini che ci sono, come dappertutto altronde. È entrato Antonio, avanti Antonio. Buonasera a tutti, buonasera! E buonasera anche a lì, vai Gianfra. Ciao Antonio, pace bene. Ma ha detto qualche d'uno che stanno in battezzato, vero? A che stai dicendo? A te, Roberto. Battezzato cosa intendi? Su che frequenza? No, battezzato. Ah, ho capito, battezzato. Sì, battezzato, stiamo parlando di quello proprio. Anche io ho capito, battezzato. Capa. Chi è che tira? Mi sono convincente di me. Non ti sto seguendo, Anto, ripeti. Ci sto pensando anche io di prendermi la patentino. Ah, ho capito, sì. Se ci riesci, se ne hai voglia, ci vuole un po' di passione e un po' di tempo. Capa. Non manco uno, che perlomeno sono un po' più tranquillo. È che io non amo molto andare in banda amatoriale, però. Vabbè, uno può fare quello che vuole, dai, ci sono tante frequenze e puoi vedere un po' tu cosa fare. Capa, non ho capito come si fa esattamente, però quando avrò un po' più di tempo ci proverò. Oggi devi provare. si riesce a diventare radiosmattore. E cosa ci vuole? Dai, apri un libro, te lo leggi, vai, li dai. Ah, attento, Garganella, ascolti qua, cambia. Ah beh, prendi il l'accetta motore. Andiamo, caccia. Ah, avete mangiato ancora? Sì, già l'aria di un magnato. Mi ritrovo le scarpe. Adesso faccio l'accompagnare. Perché ho un computer, devo cambiare un pannello LCD. Bene, bene, bene. No, io ancora non ce l'ho. Ancora sono bisogno di grande fratello. Per rottura di guglioni, grazie. Ancora grande fratello esiste per caso. Io ho mangiato quei così panati di pesce là, buoni e poi ha fatto questo tortino di, come si chiama, di, ma cos'è fatto, ma il tortino? Di, vabbè, di verdure grigliate, che a me le verdure grigliate poco mi piace. Ehi, mi pare che non ti fa una cosa del genere anche qua, infatti già mi ho mangiato un po' di crema di formaggio che mi aveva lasciato Pinocchietto. Con due cracker, mi ho bevuto una birrettina. Adesso aspetto quando ne hanno voglia, se mi chiamano, se no, se abbiano in gamba le vostre mani. Ciao Roberto, ciao Antonio, non so che ci sia altro. Ciao anche a te Claudio. Comunque il classico, sono andato a levarne i punti oggi. Il dentista mi ha detto che è uscito un ultimo lavoro, adesso deve guarire ancora. Ciao Gianfranco, comunque ciao Luca e ciao Claudio. Ciao Gianfranco. Sì, ciao Luca. C'è anche Antonio. Riprendi Antonio. Capa, ciao Luca, risentiamo, vai. Dai, io vado a casa, a dopo se ci siete, ciao. Ciao, ciao Luca, a dopo. Mira, ciao Luca, vai Gianfranco. Sì, ciao Luca. Io mi allontano un attimino, che devo prendere una misura. E io. Tu non hai mangiato ancora a casa, vabbè. Oggi ho mangiato più presto del solito, dai. No, ancora no, non è pronto. Ciao Gera, mi sono mangiato un bel panino con la bumata e andava così. Tanto mi piace a me il panino pomodoro, quello rosso bello fresco. Poi mi mettevo un po' di formaggino sopra, una fettina di sozzia, troppo buono. E anche un zutariva in mezzo, buono, non è male. Un po' di zutariva, sale, un bel volte io lo mangio così, appena appena di origano. Finito. E un po' di rucola sopra, la morte sua. Che allora fai la focaccina, io le faccio le focaccine, mi ha segnato l'aria, però le focaccine lo giro, faccio pomodoro, tonno, maionese, rucola, l'uovo solo, cioè, allora sì. E la pancetta pure, tipo milese, beh. Esatto, la pancetta o il prosciutto cotto, insomma, tante cose. Kappa, va bene, quindi niente, beh. Ok. Io già ne so come fa pure io che si gode, mi ha pento bene mi a farle. Buona reddito. Sì, però queste focacce rotonde, tanto morbide, morbide da grandi, e quelle grandi che lo fai a spicchi. Ma spettacolare, preparare l'aria a casa è una cosa spettacolare. Metti appena appena al forno, come vedi che sta iniziando a rosolare nella bocca, a dargli a spicchi, oh, a goccia, ride. Chi sa, mi piace a me. E l'aria le fa il bar. Ma quando capita la tutela, fa la focaccina, aspetta, con lo spare al freezer e prende porta con le focaccine grandi e rotonde. Ma, uia. La Ziminea non vedrai chi vi. La Ziminea, la Ziminea mi manca, no, fa puttana, tanto non mi piace. Ci starebbe bene nel salone, è bellissimo, però non mi interessa. Nai, lavoro, pulire, fare, portare legna dentro, alzare le tre, esci, no. Già lo so, già. Vabbè, te lo fai fuori, è lo stesso. Poi già ce l'ho, poi ce l'ho. Per quest'anno era una cosa provvisoria, adesso in primavera, per un amico muratore mi fa proprio il baby cool con il forno e caminetto, diciamo, esterno per arrostire e fare, capito? C'è l'aria, mi piace anche fare il pane, facciamo il pane, le pizze, tutto. Ah no, ma che? Pane l'hai già fatto perché è classico. Cosa? L'hai già fatto il pane? Io so fare il pane, e lì ho voglia, lo faccio anche buono, ma anche l'aria lo so fare più buono di me, voglio fare se focaccia. saracina è buonissima, le spacca in mezzo, le fa rilassare, le asciuga, si può andare di giorno. Poi non so se tu hai mai fatto il pane distrutto, con i pezzettini di carne, tipo carne macinata, una cosa del genere, e puoi fare sia salate che normali. Mamma mia, cos'è? No, dico, se il pane l'avete già fatto, c'è il forno, ce l'hai il forno esterno, te l'hai messo, il barbecue? No, il barbecue c'ho, il forno, per quest'anno non ho fatto in tempo a fare tutte queste cose, dunque, adesso andiamo a vedere, inizio lavori esterni e mi faccio fare dal muratore questo coso qua. Il forno, se ce l'hai, ti diverti parecchio, puoi fare un sacco di roba. Sì, lo faccio fare. Ah, hai visto dove è il più fuori, all'angolo della casa, quella dell'altra stanza, quella della finita. Sì, no, ci manca già ne spazio per farla. Ok, vediamo se Gianfranco è rientrato. Sì, sono rientrato, ma adesso vado via. Già le 8:30, quindi oggi non ci rimango. Vabbè, in radio. Ho voglia di vedermi quel film che ti ho detto, se ci riesco. Perché anche domani mi sveglio presto, alle 7 sono già in movimento. Ciao a tutti, alle prossime. Se già fa prima che mi alzo io, immaginate una settimana mia figlia sta facendo l'apertura, entra alle 7:30, esce alle 7:15 di casa, quindi si è nata alle 6, e io ho preso lei, le preparo la colazione mentre lei si sta preparando, faccio il toast, la spremuta, il caffè, capito? Perché lei fa tutte queste cose. Infatti l'ho detto poco fa, domani anche io devo entrare a lavorare, papà, sveglia alle 6, porca puttana. Hai voluto la bicicletta, bella. No, la bicicletta veramente era gioia, c'è quello che c'è un da rendi. Ah, così. Dunque, ciao Gianfranco, tutto, dai. Ci sentiamo prossimamente. Ok, vai, per saluto Antonio e poi Fabio. Ciao Gianfranco, ci sentiamo. Ciao Gianfri. Alle velocimine, KK. Così, vabbè. Vabbè, mi si alza presto, quindi mi alzo anche io a preparare la colazione. E niente. Mi alzo anche prima perché porto anche quei cornetti surgelati, quindi ne tolgo male 2 o 3, metto al forno, al fornetto, li preparo caldi così, quando si alza sono già pronti. E tu non hai giù, Robè, tu ne avessi lui, anzi ne hai due ne hai o tre. Due e bastano loro due per troppi, ce ne sono pure troppe. Ah beh, una ne hai a casa, l'altra è per i fatti suoi. No, la passo tutti e due a casa, che è anche il fidanzato qua. Sì, a vedere loro che c'è a casa. Li metti tutti e tre nel corridoio, mi ci stanno, sai quanto ci stanno bene. Sì, nel corridoio, 20 metri il corridoio vai. Già non è piccola casa mia, dai. Non posso dire niente rispetto a qualche donato, mi accontento però. No problem, cosa ti volevo chiedere? Qualcosa? Club e non me ne ammetto. Vai tu Anto. C'è uguale come quella che ho visto io. Cavolo, insomma ne un bel appartamento. Grande quello di Roberto. Cos'è detto qua? Ha detto Antonio, se è come quella che ha visto lui, perché lui gira gli appartamenti e consegna le bombole. No, quella tua ha detto un bel grande la casa. C'è ogni corridoio, quelle stanze sono grandi. È un bel grande. E c'è una bella veranda, poi quella me la sono fatta tutta io, da testa a piedi, tutta grande, quella sono 50 metri, 48 metri di veranda, quella vetri, mi già si vede da fuori, forse Antonio che andava a fare. Antonio, lo sai cosa fa Claudio? Mi va il servizio fotografico ogni tanto, volta che viene a portare una bomba, dico, ma lì sei casa mia. Sì, anche a me, quando era vicino, era già dai carbonati, ogni tanto mi mandava una foto, ma questa è l'antenna tua, amico. Perché io le riprendevo dall'alto, capito, vai, un po' di volte. Perché io salivo anche all'ultimo piano. Normale. Lo so, Robè, sono venuto a sapere volta a casa tua, è che non la sfrutti quella veranda. Ma avevi riparato poi, c'era un periodo che entrava acqua. C'è sempre gocciola, non aggiungare, però a parte c'è freddo d'inverno, dovete tenere sempre attaccata la pompa di calore, non meno affuttinuta, di lì è bello, è primavera, in estate ce n'era a morire, ci sono 50 gradi, devi aprire tutte le finestre e far circolare aria, però c'è freddo di lì, infatti quasi niente, mica quando c'è la giornata tranquilla, se ti puoi ascoltare un po' di musica, vado di lì, però sinceramente devo sistemarla sempre quella roba di Tanebusso ribedinato e ci sono queste gocce che mi allagano. Mi ricordo c'era quel problema lì, è bella grande, bella fatta, sì, io vabbè te la sfrutti, ma le ragazzi quando fanno qualche festa, qualcosa, io ti ricordo in Chievi Trento, capito? E io perché voglio finire con la Santa la Grande, perché magari capita, mia figlia vuole starsene tranquilla con la ragazza, ce ne vanno lì e voglio fare un mini appartamentino, capito? No, se c'è la possibilità di fare, no, lì ho fatto, l'ultima volta abbiamo fatto la festa del mio compleanno, settembre, 13 settembre, abbiamo fatto la festa a tutti gli amici e parenti, dai, non eravamo molti, siamo stati una ventina, ma è andata bene, già va di lusso. Fermo un karaoke a HD. No, di quello già c'ho tutto, Anto, non mi manca. Allora, amica, HD, venimo, fermo un karaoke, faccio qualche canzone. Guarda, se vi dico cosa abbiamo fatto di dentro, voi neanche ci credete, cosa è stato fatto a casa mia, se volete ve lo racconto pure, ma a livello mondiale, non a livello di Sassari. Ma lì, quella veranda. Allora, nella veranda hanno registrato uno di quei corti, quei documentari corti dove fai, durano 3 minuti, sono venuti tutti i registi, fotografi, tutto quanto, una cosa grossa, erano questi che stavano dando una tesi di laurea di cinematografia. Poi ho avuto un collegamento con la mia ex compagna da casa mia per 2 volte, collegamento internazionale alla televisione nazionale, cosa, di fuori di un paese dell'estero, non diciamo niente particolare, in diretta videochiamata, l'hanno fatta da casa mia, infatti tu la vedevi in tutta Europa quell'immagine lì, l'intervista eccetera eccetera. E poi è venuto un'altra persona e abbiamo fatto nella mia stazione, non faccio il nome, già la conoscete sicuramente, ha girato un film di tipo, non dico comico, però un po' di quelli grotteschi su queste cose degli alieni, degli extraterrestri, e l'hanno girata nella mia stazione radio, ho acceso tutte le luci degli apparecchi, lui ha portato delle lampade strane e ha fatto una specie di tipo una stazione spaziale, come si chiama, una navicella spaziale, e si è collegata, e ce l'ho nel film, io faccio parte di quel film, e c'ho il DVD, non mi ricordo come cazzo si chiama, tipo come quei film che hanno fatto Pino gli Anticupi, quel genere di lì, i film un po' comici, dai, e lui ha portato tutte queste luci, ma poi sono una maschera, una cosa, io facevo il pilota di questa astronave qua, una cosa bellina, a me se capita già te lo faccio vedere qua. Già va a casa degli astronavi o delle mostre, e ho messo una maschera di quelle antigas, delle cuffie, poi ci doveva portare tutte queste luci strane, sembrava dentro una stazione, una vicella spaziale, perché tutte le luci mie ho acceso, tutte le radio, tutte le luci spenti, e vedi tutti i figosi, sbagliamo, una stazione, come si chiama, un'astronave, poi gli ho portato queste lampade, facevano questi effetti strani, e le puntava in faccia, pari un mostro io, con questa roba qua, e dovevo dire delle parole, attenzione, terra, non mi ricordo cosa cacchierà, c'era un copione piccolo, delle parole brevi, e terra, siamo in fase di avvicinamento, non so che cosa, e me l'hanno registrata questa roba. Adesso così vedi, spero che vada avesse pronta la cena. Cosa hai fatto? Una cosa con la radio, no? Con il baracchino. Cosa ho fatto? Il doppione col baracchino l'hai fatto, come hai fatto? No, ha registrato col microfono, lui ha registrato tutto, c'era la telecamera, io ho parlato, lui ha fatto vedere, io ero vicino alla stazione, era dall'altra parte, però non è dove adesso la stazione radio, con tutti gli apparati, io ho, l'hai visto, te ho fatto vedere un sacco di roba, tanto quando sono tutti illuminati a luci spente, magari una navicella spaziale, una torre di controllo, cosa vuoi che ti dica? Poi lui ha portato queste lampade colorate, blu, rosse, che cambiavano colore, e dava un effetto tipo una stazione spaziale, e come si chiama, e poi mi ha fatto dire delle parole, stazione terra, non so, non me lo ricordo neanche, l'ho fatto un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa. Suga, e che film è? Ma è dietro di Sassari. No, non è di Sassari, anche se vive a Sassari, ma non è di Sassari. Non mi ricordo il titolo, ci credi che non l'ho manco visto, ne ho visto il pezzettino, mi sono guardato solo il pezzettino mio. Parla di questi qua che arrivano in Sardegna, di questi extraterrestri, e cadono in Sardegna dove ci sono i nuraghi. Infatti la copertina del film ci è disegnato un nuraghe e si vedono questi cose. Non mi ricordo il titolo, come si chiama, perché l'ho visto tempo fa, un paio di anni fa, l'ho guardato così e poi sono arrivato, infatti quando l'ho fatto vedere a tutti, tutti noi verde, la maledà, che faccia, perché non la vedi la mia faccia, poi la voce è diversa, tutta modificata, sembro un extraterrestre, ma appunto ci ho messo una di quelle maschere a gas con le coperte che ti chiudono tutto il corpo, a me giù mai mancava il fiato, non riuscivo a respirare perché ti chiude tutta la faccia, gli occhi, la bocca, dietro, tipo quelli che usano nei film delle guerre chimiche, quando fanno vedere le cose così. Poi lui mi riprendeva con questa luce frontale e ti dava un effetto strano, sembrava un marziano. Ma come me l'hanno fatto in casa tua? Ti conoscevano, cos'è? Ehi, certo che mi conosceva, poi una volta è venuto a vedere la stazione, mi va bene a fare quello che devo fare. Lui è stato impressionato da tutti gli apparati, poi l'abbiamo fatto una prova, spegni tutta la luce spenta della stanza e vedi tutte le lucette di tutte le cose che si muovono, gli smitter, le frequenze, i frequenzimetri, analizzatori, eccetera, eccetera, e si vedeva tutta questa roba colorata. Lui poi ha messo queste lampade qua e sembrava una navicella spaziale, tipo l'Enterprise di Star Trek, una cosa del genere. A me mi ha fatto mettere in una sedia girevole che ce l'ho qua, e dovevo parlare col microfono, c'avevo il microfono, le cuffie, e dovevo parlare, e lui mi ha registrato, non mi ricordo cosa mi ha fatto dire, attenzione base terra, siamo in prossimità di Nettuno, siamo vicino, non mi ricordo, non me l'ha messo brutto, me l'avevo anche riguardare per curiosità, e in prossimità di coso, attenzione stiamo perdendo il contatto radio, buh. La navicella spaziale di Santovacchiano, rispondete. E una cosa del genere, dicevo, navicella qui base terra, buh, non me lo ricordo tanto, guarda, ti direi che sì. E poi sono venuti questi dell'università, quelli di università che fanno la cinematografia, il corso di cinematografia, la biennale o la triennale, dipende da cosa, sono venuti qua, ma la roba delle attrezzature ci avevano, okay? E questo qua faceva il mafioso, non il mafioso, l'informatore di cose, dietro proiettavano delle immagini di cose strane, buh. Quello era veramente bello, lui era coperto, li avevi visti tu quando, tipo quando fanno vedere la televisione, uno che dice, che parla per dire della mafia, cose del genere, non vedi il viso e gli cambiano la voce, non ti è mai capitato di vedere quei film? Già lo so, io non ci riesco proprio perché poi comincia a dare battute strane, cioè ne c'è una gionfra, mi hai capito? Ne c'è veramente una gionfra, ne c'è, io non riesco a fare quei copioni lì. Ma prendi su coso? Nessuna gionfra, te lo dico già. No, questi erano tutti professionisti, c'erano quei microfoni, quelli lunghi, con la pelle di pelliccia sopra, non mi ricordo come si chiamano quel tipo di microfono, poi c'era il chuck, perché li hai visti come fanno il chuck nei film, il chuck si gira, e c'era il numero, scena, numero, coso, e c'era il cronometro che girava, perché devi tutto sincronizzare dopo l'audio, e poi dietro proiettavano delle immagini strane di cose, e questo poi era tipo, quando fanno vedere, tipo, ne hai mai visti tu, quando quelli che fanno i servizi segreti, cose così, che li intervistano e, no, e sono tutti nascosti con la faccia, vedi, solo gli occhi e non senti le parole, la voce te la modifica. Questo è un bestione, 1,90 m questo qua, che parlava e raccontava di cose, un film era, in parole povere, però breve, dura, mi pare duri 3 minuti, era la tesi di questi qua, ma roba di attrezzatura, dovevi vedere, c'erano poco tecnici e controtecnici, io gli ho dato delle attrezzature che avevo io pure a disposizione, perché avevamo dei problemi di microfoni e coso, li aiutati io con dei cavi eccetera, però ti posso dire, non c'era tanta niente, però poi tutto il silenzio, tutte le luci, una cosa spettacolare, dice, a questo momento il silenzio, non ti potevi neanche muovere di un millimetro. Sono poco fiscale io, oh, cosa vuoi fare? Ma comunque, avevo visto un film girato a Sassa, da chi su Angiù, sul regista, non mi ricordo cosa era, si chiama Perfida, una cosa del genere. No, io già ne ho seguito di me, poi sono molto amico di quello che hai fatto, hai visto quello dell'Ichinusa, l'uomo dell'Ichinusa, della pubblicità? Noi siamo molto molto amici, quello c'ha un parco degli artisti, una cosa unica, vengono da tutto il mondo a vederlo, questo qui vicino a Ussi, questa roba, una cosa meravigliosa, chi ci va non se ne pensa, siamo molto amici, lui ha fatto un film l'uomo dei boschi, mi sembra anche si intitoli. Lui si chiama Bruno Petretto, veramente una persona con le contropalle, grande di età, ha fatto mi sembra 79 anni o 80 ne ha fatto, ma un lavoratore come quello pochi ne ho conosciuto. Sono cose belle, già sono cose belle, robe, vedere le cose qua. No, ti ho detto, io sono appassionato un po' di tante cose e ne ho visto di tutte e di più, e poi non per vantarmi ho fatto anche qualcosa io, e poi ho partecipato ad altre cose. Io c'avevo una piccola stazione radio piccolina, niente di più, e poi queste cose, operazioni qua, è stato quando c'era il Covid, quando l'anno scorso era il Covid, due anni fa 2019, sì, è stato fatto il collegamento da casa mia, due collegamenti internazionali via satellite, ha mandato in tutta Europa, dentro casa mia. Gaffa, e beh, quello che c'è una parabola, un bel grande, ma quello c'entrava niente. No, quello di ricezione, no, eravamo collegati, non io, lei, in videoconferenza, e questo segnale poi andava a finire alla televisione loro nazionale, e la televisione nazionale lo dava in tutta Europa, come tu ascolti là e loro ascoltavi, ti vedevi questo programma qua, c'erano quattro persone, quello che ti intervistava in studio e ti faceva l'intervista, e loro quello ripetevano, c'erano dei personaggi famosi, diciamo persone importanti, per dire c'era il critico, un medico, non so, uno tipo come fanno vedere da quei programmi, tipo ma cacchio si chiama quel programma che dà quel guasto di Fazio, che c'è la persona preparata su quell'argomento lì, e ci parlava un po' di Covid, insomma questa persona era qua a Sassari e noi eravamo al periodo in Italia, proprio all'inizio nel mondo, non c'era ancora dalle altre parti questo Covid, da parte della Cina, e hanno intervistato proprio qua, chiedendo informazioni come era la situazione, eccetera eccetera. Siamo un bel paese, siamo, ma solo che ce lo valorizzano poco la Sardegna, cavolo. Ci sarebbe di più, cavolo. Io lo so, purtroppo gli italiani e i sardi molte volte sono un po' così, un po' chiusi, poi entrano ridi, si vendono tutto e ci mangiamo le briciole noi. Vabbè, speriamo che le cose migliorino un po', hanno migliorato, però tante cose belle ce le siamo vendute noi. Ok, vediamo se è entrato Claudio. Io devo chiudere, ce la risentiamo domani. Ok. Sì, no, io rimango ancora un po' in corretto, non devo fare niente adesso. Sto facendo ora, mi faccio qualcosa qua in radio. Comunque, c'è tanto ben sentito, ci sentiamo alle prossime. Buona cena se devi farla, anzi mi sale già fatta. Se no, buonanotte e buon tutto. Ciao, Antonio, ciao, ci risentiamo. Tu la dose, Gla. Ciao, buon voli. Ah, ancora ci sei, Luca, pensavo te ne fosse andato. A casa la mamma sono, sto sistemando un computer, roba. Io sono qua in corrente, se qualcuno vuol parlare è sempre ben accetto. Vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare. Vedi, che c'è una buca di niente. No, io sto aspettando la fisica, se c'è roba al forno, per quello ogni tanto mi assento. Ciao Antonio, ciao Lugari. Ciao Claudio. Devi parlare di Luca, come si dice, Claudio. Edoli di Claudio. Non ci scherzando, qualcuno davvero non è mai riuscito a chiamarmi Claudio. E mi chiamava Gladio. Gladio? Sì, Gladio. Servizi segreti. Come Claudioli. Come gnocchetti. La cassa di Nino, cazzo, ma mica mi ha messo le luci fuori, cazzo, nella parte sua, le luci di Natale, ha messo gatto mani, il cazzo tutto, c'ho delle scariche allucinanti, la bagaccia di gatto ha fatto. Perché c'ha le luci che stanno accendendo qua? E lui le ha messe lì a casa sua, dietro, nella veranda che c'ha, non sappiamo già fa, cazzo. C'è la mia figlia oggi, mi ha chiamato, va, voglio stabilire il chiavistù, devo prendere le decorazioni, ma sta scherzando, che se manco la novembre, ho detto, sì, normalmente mia mamma il coso le faceva all'Immacolata all'8 dicembre, per dire, il presepe, facevamo la piccolina, e dammi che siamo a novembre, no, metto la sacca, non tocca a nulla. Vabbè, ma non gli scende il domenico, dopo il 15 novembre ci farà il Natale, ma già si risente. Magari lo fai il 15 novembre, io non ne ho mai sentito. No, ma lo faceva sempre a metà novembre, con le decorazioni, nella porta, nel portone, capito? Io non gli ho nulla. Io quest'anno ho vedete i fuochi d'artificio. volta di Sassari. E che lo devi fare? Si fa il 6 dicembre. E mio fratello, c'era mio fratello napoletano, sono quelli che c'hanno l'azienda di Arena, quelli che c'hanno l'azienda a Incomfort, a Reline, quelli lì, non è poco, sono andati a Napoli, ci sono tornati, hanno già fatto il carico, ha regalato un poco di volte, ha detto dammi un po', e questo hanno gli altri rifletti, dice in campagna, no, ma che, forse li risolti nel giardino, ne vedi di roba tenda in aria. Botti, anche a me sta, proprio un paio di Nike, ovviamente. Nike? No. Ehi, gli aviranici, sì. Provano a Napoli a vestirsi, la roba contraffatta, ragazzi. A ne voi qua di altri segnalazioni scaduti, ne ho un pacco. No, ci mi fa nulla. Ah, te ne vai, io odio queste cose, sto scherzando. Loro li fanno, che c'è una polizia, io li odio. Infatti, stiamo organizzando, se per la prima volta quest'anno io ho 50 metri quadri di salone, non voglio venire a dire 30 bacioni, stiamo organizzando, e gliel'ho già detto, io vi avviso, se volete venire a casa, l'ho detto proprio a Luigi, al genere, non portare botti, e per intanto non te ne faccio sparare, e allora non vi venite manco. Ma poi c'è il cane, poverino, il cane soffre. Soffre, proprio quest'anno che è tranquillo e sereno, che non sente botti, da chi non hanno il paradigma, siamo in quattro, sono già lo cerebro, se non sono distante anche da dove ci può essere un po' di macello, che devo subire, ma attennante. Guarda, anni fa, non ero forse appena sposato, mio cognato Giulio, già lo conosci, quello era a casa sua, siccome loro li vendevano tutte queste cose qua, cosa ne portava a Natale, a Capodanno, era, ma poi tutte cose strane, cose che non erano frequenti, ecco, bombardamento, io abito in una zona di quelle, come si chiama, Valle Pedrosa, dietro prima di San Camillo, ma cosa portava di attrezzatura di Ghifibutti, ti spaventavi, lui e il padre, sfidiati che non ne potevano, io c'ho paura di queste cose esplosive, loro li vedevi prendere i gozzi, mamma mia. Luca. Cassa da roba che sto manovrando dei, come si chiama? Dei panni delle CD insieme ai posti ad anno, aspetta. Luca, a me Luca, Claudio. Ehi, cosa stavo dicendo? Mio cognato già lo conosce a Giulio, quello lì a casa sua a Capodanno era una cosa spaventosa, tutti gli anni, no, anche a Napoli, ma più tutti a Capodanno, cosa ne portava, siccome la madre ci avevano il negozio, vendevano anche di queste cose, poi c'erano quelle potevano vendere, le altre cose se le tenevano loro, quelle che non potevi, se le faccio mettere, le mettevano da parte, ma erano guerre, c'era tutto l'isolato, aspettavano a loro per questa roba qua, ma cosa ne arrivava, Perché loro li sequestravano, no? Loro, vabbè, non si può dire, lasciamo perdere. Ci sono delle cose da guerra. Lo so. No, io li odio queste cose. Allora, un anno a Carbonazzi, Filippo si è fatto la pipì addosso. Si tremava come una foglia, poverino, dovevo coprire e mantenere io, perché era una cosa allucinante. Lì alle case popolari i Carbonazzi hanno fatto un casino prima delle ordinanze, prima del Covid, eccetera. Ma un casino, robè che non ti dico. Ma a Napoli, non li guardiamo nulla a Napoli. Bomba a mano, fuochi d'artificio, fucilati, di tutto, guarda. Addirittura ho abbassato tutti gli avvolgibili perché avevo paura. Era l'ultimo piano, mi ricordo, tanto avevo paura. Ma lì devi stare attento anche il macu che non spari a fucile e mai te ne entra in casa del proiettile, lasciamo qua. Io sono di armi, tutto mi puoi dire, io le temo le armi, c'era il mio ex suocero Buonanima, quello era cacciatore, vieni qua a sparare, ti si muni dalla finestra sparando, io lasciamo perdere, diciamo, perché si sarebbe da raccontare di queste cose, cosa facevano, ma più di tutti mio cognato era, no? Lui rubava, boom, cose allucinate. Ma va bene, è pericoloso. Spero che vada a togliere roba al fondo. Ehi, vediamo se nel frattempo qualcuno su 10 qua ha desiderio di entrare. Avanti che vuole entrare. E che, Natale tu sei? Sono la lacrima, tu sei. sentito lui? Antonio Cantè. Non è Antonio. Allora Carera. Tu vedi Antonio. E allora? Esatto. Luca già lo sa. Perché ti sei abbassato il segnale, Antu? Eia! Sono rientrato, dai! Sto aspettando a Sara, ha detto, vabbè, continuo. Cappa. Antu, ho detto, perché ti sei abbassato il segnale? Come il segnale? Ora! Ora! Meglio va! Sei un po' più basso. Ma che radio c'è, la grande o la piccola? La grande! Ma mi sta rompendo le scatole un po'. C'è il telefonino mezzo appoggiato. Aspetta, va. Ora, guarda a vedere, ora! Ma tu sei più basso del solito, boh. Ma cosa vuoi che ti dica? Ora! Ora! Ma che malazzo si va? Aspetta. Pure stazione sono a posto, aspetta. Vado a vedere ora, va bene? Tanto già va bene il segnale, ma non è il segnale tuo. Sei 9.20 e poi arrivi a 9.25. Boh, non lo so. Non lo so, controllati alimentatore, se c'è stazionaria, tante cose. Guarda, l'ho controllata adesso, è stazionaria, vanno bene. Ora, ora. Guarda a vedere ora, com'è? È sempre uguale, il segnale è forte, no? Però non, se, non è il tuo solito segnale. Cosa ne so, quella prospera va. E quando entra Claudio lo chiederò a lui. Cosa ne so, perché non lo credevi che ero io che stavo cantando. No, perché ho guardato il segnale, non ho concentrato sul cantante. Mi sembrava il segnale di Natalina, infatti ho detto, ma Natalina mettendo musica. Antonio canta forte, sembra Claudio Baglioni. Qual è il segnale di coso, di Claudio, mi di Claudio, di Antonio, Claudio. Non si permette gli occhiali, il vento. Allora, 3 prova. Mi pare che dovrò mettere la carina, c'è il calato. Non è che sto tirando forte, no, cavolo. Non c'entra niente, ma il tuo segnale con quella radio è troppo basso. Sto usando il K, soprattutto il 430, che è bello preciso lo Smith. So che dirti, qua stazionaria non ce n'è, o va la prospera stasera, non lo gioco. Ora, cosa ne gioco io? Quanto ti arriva Roberto? Allora, senza parlare arriva a 9.20, parlando arriva a 9.25, invece prima era a 9.30. No, 9.30 attaccato. No, quando parlavi prima eri 9.25 a portante fissa e 9.30 parlando, adesso sei 9.20 e 9.25 modulato. Adesso riproviamo a fare l'alta potenza, com'è? Strana la cosa. Ma quanti watt la stai usando quella radio, Anto? Lo smitter, c'hai il wattmetro in quella radio, no? C'è la scala del watt, a quanto la stai usando? L'importante muta. Ah, 10. Troppo poco, cazzo. Mettila a 20 watt e l'importante muta quella radio. Ti ho aggiunto la tarì. Ma scusa, classe, mi bastano perché devo pompare forte. Lascia pompare forte, Anto, lascia pompare forte, se sentiamo 9.5 qua, lascia pompare forte, io non mi vado in onda, io 4.40 lo tenevo a 50 watt di portante bianca, e oggi fa vedi una radio e la battete a livello di un baracchino, gatto. Guarda. Guarda perché si aumenta ora. Ecco, lascia la 20 watt di portante bianca e quando parli poi sale a 40-50 watt sul parlato. Ma poi usare il livello di un baracchino. Allora tanto male, mi recludi e ti attacchi il baracchino. Ma io non la voglio sfruttare questa, cioè la voglio sempre tenere normale, eccetera, e se mi baffano i vat, perché devo stare a spingere? Vabbè, la tengo così, hai ragione. Ma il processore inserito ce l'hai, Antu? Aspetta, oh mia cazzo. No, aspetta. Sì, è inserito. Beh, con la giornata di grado, la macchina vuole andare a macchinare o vuole andare a Dezzi? Veramente a volte, lo dico anche a volte sento Giulio, è 8 watt, 10 watt, ma se ci avete una radio e c'è un filare, cazzo da paura, e tiene 50 watt di portante muta e 100 modulati, cazzo vuole finire a 10 watt, io non ci riesco, io questa radio ce l'ho sempre a 20 watt di portante, a volte la metto anche a 30, non solo, ma adesso ce l'ho a 20 watt modulati 40, ma è normale, se no mi attacco lo baracchino da 10 watt, lo Galaxy, il modo vecchio con lo Galaxy, e che discorsi c'ho? Non fa niente Antu, ricordati che quella radio, la radio che ha un tre conversioni, meno watt le dai e peggio funziona, a me sta a dirmi, 20 watt sono più che sufficienti su quella radio, non stai pompando niente, manco l'isoletti con i serventi. Ma qualcuno dice che lo sfrutto troppo. Ma qualcuno chi? Fammi nome e cognome. Vegge 50 anni, io l'ho avuto per 50 anni il 440, per modo di dire. Dall'87 che ho usato il 4, l'ho sempre tenuto a 20-30 watt importante. Non è mai successo niente, cosa devi sfruttare? Cosa sfrutti? Adesso con questa potenza come sono? Hai scelto il tuo segnale, 9-10, normale, capito? Ma io non sono vicino a Roberto, io sono molto più distante, 9-10 va bene, capito? Poi quando attacchi l'altro, allora aumenti, però sicuramente adesso a Roberto gli sei salito il segnale. Ma che vuole entrare avanti? Sì, come sto dicendo? Vuoi che sarà sempre. Vabbè, Eugenio. Ehi, buonasera a tutti. Ehi, Franco sono, come sto uscendo? Bene, perfetto. Un altro po' lo riusciamo per la con Smitter. Ti sento molto basso. Buonasera a tutti, Ciao G. Ciao anche a Roberto. No, stavo provando il microfono. Quando collego la scarpetta esce male. Sicuramente c'è un rientro di radio frequenza sul microfono, non deve essere ben schermato, dai. Vabbè, è salito il segnale di Antonio adesso, qua è salito di 5. Ho fermo, 9,25 è importante, 9,30 modulati, il suo segnale è normale. Allora, che se non tu, poi quando attacchi l'altro arrivi 9,30 a pieno, e così è il quadramento, così lo devi tenere. Diceva, è troppo poco per quella radio, tanto male che trattiamo le baracchine allora. Lasciala così, vai tranquillo perché la sto dicendo io, che non li fate, manco Rubero le gocca 20 watt importante a quella radio, io non ce l'ho 20 watt il 430, 20 watt il 140, a 20 watt lo IAESE, tutti a 20 watt le uso io, cosa di buono, 5 watt le buone, allora nessuno è tratto il baracchino, Dai signori, io vado a mangiare, buona digestione a tutti, a dopo se ci siete, a domani, ciao. Ehi, ciao, salutiamo di nuovo a Franco per far girare Eugenio e Antonio per salutare a Claudio. Vai Franco. Capo, no, non pensavo ci fosse più da questa gente, sono entrato un po' a gamba a tese. Pensavo ci fosse nessuno. Ciao Claudio, dammi conferma se va meglio. Sì, il segnale non è il tuo, è molto più basso, però la radio è perfetta adesso. Praticamente se attacco la roba esce male, capito? Non ho capito perché, forse è troppo vicino al microfono. Non lo so, magari c'è qualche dietro di RF tra microfono e lineare, lo può fare. Va bene, ti lascio in compagnia se vi fai delle prove. Ciao a tutti, alle prossimine, ciao. Ciao, qua ce la risentiamo alle prossimine. Avanti, vabbè. Sì, l'ho già salutato a casa, facciamo venire avanti a Eugenio. Avanti, Eugenio. Ciao, buona masticata, Claudio. Io sono Antonio, a Santiago 3 mi è accaduto a 7. Adesso sì, va bene. Kappa. Ma vai andando Gigi, andando, Tu andando in Sì, che cosa? Gigi! Il coso! Che c'era un po' di freddo, me l'ha acceso! L'amplificatore! Gigi, ha trovato la mia! Ecco, niente, buonasera a tutti, io vado a masticare, sono entrato adesso a lavoro, sono capito. Ciao, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao Gigi, ben sentito, dai, io rimango un pochettino e poi vado via, vai Franco. Adesso devo chiudere un po' tutto qua, soltanto che il cavo del microfono qua un po' non prende bene il morsetto, devo accorciare i sei fili, affinché... Il cavo grosso venga preso bene dal morsetto dell'attacco del microfono e della presa. Adesso qua, lascia così. Adesso ho aumentato il brutto segnale, la radio è perfetta. No, beh, quello sciure posso attaccare quello che vogliono in esca, ma quello là è un ZG per carità. Come attacco no, esce malissimo. Entra. C'è un rientro di radiofrequenza. Ho capito, ma poco fa non mi muovo di lo smitter, adesso si è a 5 però. Poco fa ero con neanche 4 watt, dai, con i watt dell'apparecchio, che li ho abbassati. Ah, va bene, d'accordo. Ci sentiamo più tardi. Ciao, buona masticare, ciao a tutti. Ciao, ciao, buona carica, avanti, vabbè. Comunque a te ti ascoltavo prima, Franco, 9 più 15, adesso sei 9 più 25. E io quanto sono adesso? Tu sei 9.30, è un peluzzino di più. Io quanto sono invece? Qua segniamo 9.30. Anche qua sei 30. Quindi esce, questa radiolina esce, dai, meglio così. Non so quante ne stai usando. No. Tu mi vuoi dire a me questo al massimo tirerà 20 watt, non di più. Ah, no, facciamo una cinquantina, dai. No, vabbè, poi modulate ne tira di più, però l'importante penso dai 15 ai 20, non di più. No, bene. Ciao a tu. Ehi, ciao! Lo smitter ti sta spaccando lì, no? Tu stai passando al 9.30? Lo stai passando? Ti sei buon pelli, ci fate la brava, io mi chiamo la scomposta. No, ti faccio schiacciare, ti faccio un giro di fura. Dovete parlare in due. Ho detto che Luca, liscio, si rifà da bene. Luca arriva a 9.25, secondo me il segnale è più forte a parte quelli che attaccano e a parte quelli che c'ho vicino. Quanto a me quando sono normale. Ma anche io ti faccio sempre i complimenti, esce bene. Infatti io sono piccolo e nero, capito? Luca c'ha una stufetta nascosta che non ha detto niente a nessuno e sta uscendo con 300 watt. Sì, 300 watt. Non c'è qualcuno ti sono fatti. Guarda, la verità mi volevo comprare. Comunque, ciao Franco. Mi volevo comprare il 747. Allora te ne fai, anche Luca, sta arrivando una bomba. A me da parte mia non posso dire niente. Ascolti, più o meno tutti, ti ascoltano più o meno tutti. Basti 320, non è meglio. Non so. Ah vabbè, che cos'è in più uno se lo può prendere? 747 esce una bomba, esce. Aspetta, quando ho aperto l'antenna a Savero che schiccheggia forte. Lo faccio uscire lo ci fuori, li faccio uscire. Guarda, Savero mi ha fatto vedere la fotografia dove abita lui, è una cosa esagerata tutto cosa c'ha di lì, ma figurati adesso. Ma perché l'avete sentito? No, l'ho sentito con un pezzo di fil di ferro, con un'antenna di macchina, arriva più di 9. Tu pensa quanto gli arrivo io e Luca lì al monte, ha sparato. Beh, esattamente non lo so, però mi immagino più o meno dove si trovi. Io in quella zona ce l'ho tutta favorevole, minimo gli arrivo a fondo scala. Ma Franco, a te ti arriva a fondo scala e a tu? Quasi a fondo scala. Quando attacca a fondo scala proprio, già un grido via. Anche Natalino ti arriva a fondo scala. Ci mancherebbe altro. Non parliamo di Rubroffetta, quello ti scioglie la radio. No, il Rubroffetta arriva a 9.60 qua. Ma che arriva la bomba, il più forte di tutti, c'è Antonio Antonio Pompugno, Coso, Carlo, quello arriva, e poi non parliamo Fabrizio. Quando è che ha acceso l'altro giorno con la 48 a fondo scala mi arrivava? No, Fabrizio qua arriva a 9, oltre 9,50 arriva una bomba, è una cosa impressionante qua. Non so il perché, ma qua arriva fortissimo. Fabrizio c'ha l'antenna molto in alto, pure noi, pur non avendo l'altezza mia, però lui scavalca tutto, lui si trova più basso di me di altezza, di elevazione, però cacchio, supera tutti i palazzi che c'è intorno, non è a ostacoli. A me mi arriva più di 9,50 mi arriva. Da un bel segnale, ottimo, ottimo. Vediamo un pochettino chi c'è rimasto qua, qualcuno che vuole entrare? Quindi altro, qual è il tuo pezzo forte? Ci sono tutte, no? Che il mio pezzo forte delle canzoni. Cos'era quella di poco fa? Che canzone era? Francesco Renga, no, quella lì è Bobby Solo, una lacrima sul viso. No, un attimo, non mi ricordavo la canzone. E tu cosa, Franco? Canterino, sì. Beh, non molto. No, una bella voce, dai. Forse mai non sono anche molto intonato. Lascio, cioè, tipo il karaoke, che queste cose a me non piacciono tanto. Sono anche un po' vergognoso anche. E poi c'è quella di Giannannini, canto qualche volta. America. È una cosa impressionante. No, io ho partecipato tante volte, c'ho anche karaoke quando eravamo giù al mare, ma lasciavo cantare gli altri, ogni suonatura, mamma mia, non è per me. Mi piace più ascoltare. Ok, Luca invece è chitarrista da strapazzo, vero Luca? Eppure ti ho sentito l'altra volta già ti arrangi bene, hai imparato tutto autodidatta, nessuno ti ha insegnato, però da quando ti ho conosciuto all'inizio che strimpellavi, adesso sei, per quanto ne capisco io, molto, molto bravo. Ma già mi adatto, dai, non ho un problema. Stai saturando, stai trappando. Perché c'ho il coso sotto, c'ho. Fa Napoli a me. Luca, ma Antonio mi passa? Antonio, mi sa che tra Antonio e Franco se la giocano, Se Antonio passa a Franco. No, allora, non lo so, mi sa che Marco non ce la fa passare Marco con te, Roberto. No, ho capito, non ce la fa passare con me. Antonio, provate un pochetto a passare assieme. Addirittura io passo Antonio, ma è strano, infatti ho detto buh, uno, due, tre, la freppina fa il caffè. Prova tu. Ho un po' capotello. Uno, due, tre, la freppina fa il caffè. 5 watt. Sì, Robè, qua c'è lo scavalchi, si sente lui, però già passi tu. No, 5 watt sto usando, A me c'è un qualcuno in più. Vai Robè, fini in nera, vai. Adesso passa Antonio. Ma ho parlato io Luca, come fa a passarmi se non parlo? Gianluca devo che parla. Ave la tenane. Ma poi continua a mattare, lo passa Roberto, poi fa continua a mattare. Ma passo anche a Franco io. Allora, Antonio ti passa adesso. Roberto, però Franco da mattare Antonio. Vabbè, loro sono molto più vicini. Poi Antonio Franco chissà cosa c'ha dietro. Sì, sempre il Boeing. Ma già non credo io. Poco fa c'avevo meno di 5 watt c'avevo. La verità. Dopo che ho usato potenza, allora non più. Ma che c'è? Franco quanto arriva fuori lì al monte? È Franco alle 9.30 quanto. Sul treno arriva. E io? Provate assieme, dai! Hola, Franco! Franco, ci sei? Non si capisce l'uno nell'altro. Avete un stesso segnale. Vuol dire che è molto favorevole a te. Ok, dai, io vi devo lasciare che vado a farmi la doccia. E ci sentiamo. Ciao. Ciao Antonio, noi siamo vicini, anche se Antonio è più forte di segnale, quando parla Roberto vedi l'ago che impazzisce, praticamente non si capisce quasi nulla. Addirittura io riesco a disturbare Antonio quando parla da te. Sì, l'ago va in vibrazione, si capisce poco. Eppure siete vicini vicini, comunque c'è un altro ben sentito anche io, tra pochi secondi chiudo, avanti per i saluti Franco e Luca. Ricapa, ciao Antonio, dai, buon tutto, buona carica, si deve caricare, non so. Alla prossima, avanti Luca. Ehi, ciao Antonio, dai, alla prossima, buonanotte. È doppio rumo, come ti arriva Luca, più forte di me? Arriva forte lo stesso, no, più forte si va, giocate comunque, dai. Allora vediamo un po', sto uscendo 9:15. No, la radio mi interessa perché sto usando questo mic amplificato che poi dovrò mettere in macchina. Se ho innesi qualcosa provo a aumentare, così a manetta anche il mic gain. Perfetto, radio benissimo, segnale discreto. No, la radio mi interessa solo la radio. Non ho capito che quando attacco però esce una porcheria, si rovina tutto, non deve essere schermato, boh. Non so neanche come fare per schermare questo microfono. No, no, così pulito, adesso sei liscio. Adesso sono liscio, sono con 4 watt, neanche scarpe. No, no, il segnale è ottimo, è 9:15, radio 5, perfetta. Adesso è agganciato, vedi? Prova a parlare. Ah, 2, 3, vedi, vedo già dal lago che sta facendo male. A momenti ti ha fatto sì, è quella roba che disturba. Beh signori, io vi devo lasciare, beh, che è un po' tarduccio, che domani si trabacca. Ciao Luca, ciao Franco, ciao, vabbè tu ne ho già salutato, tutti gli amici qua sul 10, curati da parte mia, ciao ciao. Ciao Roberto, grazie per i controllini, un abbraccio a tutti, non so se domani anche Luca, se no anch'io mi metto un po' di nastro qua nel Vulcan e chiudo anch'io. Avanti Luca per i saluti. E io sono ancora qua, sto chiudendo un computer, ciao Roberto, alla prossima, buonanotte, a domani. Sono qua, fra mi sto chiudendo un computer, mi ho fatto la prova e a posto, dove sto aggiungendo la pasta di raffreddamento, dai, con la pasta del CPU. Sì, ti ho capito, per contatto, dai. Niente, sai come si può schermare un microfono per non prendere questa radiofrequenza? Prova a chiedere a Fabrizio, lui ti può dare una dritta più di me, si chiama un microfono, ci sono i metodi, ma non saprei, prova a fare un piano di massa. Aspetta, posso mettere un po' di nastro nella... per fermare il cavo. Proviamo, va bene? Sì, adesso sì. Cioè così, tanto lo uso in macchina questo, quindi in macchina non ho problemi di attaccare niente, è liscio. Mi ha fatto uscire di testa, guarda, ho rifatto le saldature 2-3 volte, invece era l'affare che disturbava, ma porca miseria. Ed è pure ieri ho fatto lo schema, dopo che ho trovato la combinazione, l'ho scritto tutto, e ho rifatto le stesse connessioni, quando me ne ho sbagliato, nulla, ho proprio accorciato i fili, domani saldando si è scaldato anche il filo del corso, nulla, non c'era niente. E infatti c'era un altro disturbo. Vabbè, pensate che è risolto, dai. Sì, amplificata, Sì, sì, l'ha agganciato, sì. No, no, questo è liscio. No, se l'aggancio riesce male. Allora voglio che sono con le stazionarie. Perché... come sei messo a stazionarie? Beh, vediamo un po', adesso sono... No, lui, non è che si muove là, guarda. Vado aggancio, vediamo un po'. Niente. Adesso ci sto bene, però qua sei agganciato? Adesso sono agganciato. Facendo bene. Bene, non fare nessun disturbo. Negativo. Anche se aumenta, c'è la manetta. Adesso sì. Invece così a metà? A metà no. agganciamo che è meglio, così va meglio. Sì, aspetta, dove si alzate la lavoro adesso? Quando sono liscio? No, ho detto, alzate di sì, da domani. Io? Sì, a lavoro. No, domani sono zona Mamuntana, domani c'è un'impresa che deve tagliare degli alberi, delle palme, boh. E quindi sono lì di... per fare scossa, dai, devo dirgli quando possono lavorare e quando devono uscire fuori. No, perché passa il treno? Sì, devo, qualche treno l'hanno tolto, hanno fatto un po' di soppressioni questi giorni, proprio per dare spazio alle imprese a tagliare questi alberi pericolosi, dai. Però poi appena finisco i lavori devo dare, devo riaprire la circolazione, capito, dei treni. Ah, ho capito. Ho sentito qualcuno sotto, boh, qualche bip. Qualcuno vuole entrare? Buonasera, buonasera. Che è, avanti. Buonasera, buonasera. Andiamo, andiamo. Che c'è? Luca. Ciao, sa. Buonasera a tutti. Avete chi quelli di Antonio? Fra. Non lo sapevo, buonasera. Non ho capito il nominativo. Sara si chiama Sara. Beh, ho capito, dai, buonasera anche a Sara allora. A te ne giù facendo sì la luce, ho visto la lutta. Assieme? Ci avete parlato assieme, cosa sta? Ho detto che rimetto lo sciure e questo è pronto per la macchina. Figlia, Sara, cosa stavi dicendo? E Antonio è giù, sta facendo la doccia, fa un po' arriva, vi saluta. Ehi, lascialo fare, sennò poi esce puzza di piedi di agnello. Io se mi vuole la guardia della schiena. Adesso, no, non ripeto. Ah, maleducato. Allora c'è brutta mi ha detto, no? Pensa a Costantino, pensa... Se la sta ridendo sotto, se la sta ridendo, giù. Ma sta ridendo, no? Ma è un assassino, delinquente. Niente, allora passo e chiudo, buonanotte a tutti. Ciao Sara, buonanotte, ci vediamo domani, ciao. Cappa, buonanotte. Senti. Hola, 1, 2, 3, prova. Vai, fra. Quello c'ha anche il bip, infatti l'ho tolto, una bucheria. Vabbè, qui c'è a posto, cambiato il monito, perfetto. Pulita l'avvento. E cosa mi mancano solo i riti? Mi rimane da mettere tutto a posto questo, tutti questi bettanetti che mi so. Adattore, cose varie. E attrezzi, dai. Però è un casino. Ci aggiorniamo alle prossime allora, Luca. Buonanotte, buon tutto, ok? Via, ciao Fra, buonanotte anche a te, alla prossima. Ciao ciao, qui continuo a lavorare, ciao. Ehi, dai, grazie per i controlli. Figurati di nada, ciao Fra, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte. Ah, sono tutto caldo. Che bello. Di cosa c'è se mi sono dimenticato? Ah, ma, vedo un gaggio, vuoi lui. E allora, fate la pettina. Sì. Ci siamo quasi, E allora, anche la nuova? No, cos'è che la nuova? E poi la ricerca ai noghi. Ho detto anche le uova. Sì. E oggi buona bistecca è cucinata un po'. E già lo sai che scaldano le valvole. Già è togomi qualcosa, si difende bene. Si difende bene. Ah, è sulla nero, se no, io. Natale via luce da voi. Ah no, non è che consuma molto. Vabbè, un minimo di consumo ce l'ha. Maledetto, quando accendi quello che sei in propagazione, o passimi. Ah, senza ombra di dubbio. Quello è maledetto. Però domani non c'è un capo da fare, non ne ho voglia domani, non voglio fare niente, domani è venerdì. Quindi lo consegno, mi posso pagare. Ah, meglio così. Sì, questo è 17.3, 72 G. Perfetto. E l'audio? Non si sente. No, è l'ala 87, Lu. Cos'è quello? Questo è l'ala 87. Ma Colt, no? No, cosa Colt? Questo è normale. Allora, 8 giga di RAM, sì, posto. Forse qua deve attaccare il coso, vabbè. Carica batteria, mi sta. Sono aggiorna il coso. Sì, va bene, Antonio, va benissimo. Lo uso ogni tanto, lo uso. Non va bene, è una grande. MP più 4 come il tuo. Sì, esci benissimo, Antonio. Bella radio, cara. Bella radio. Ma più che bella, aspetta che saluta Marina. Allora, mando un messaggio. Questo qua non è stato mai modificato, Vabbè, allora, questo qua era di Natalino anni fa, tantissimi anni fa. Però il suo era un po' vecchiotto la carcassa del microfono, no? Allora me ne avevo regalato uno Claudio, io cosa ho fatto? Ho messo la scheda vecchia di quello di Natalino, questo nuovo, l'ho modificato. È fatto bene. Ti stavo dicendo, quanto ogni volta si cambia la batteria? Ogni volta si cambia, ogni volta si consuma. Quando si consuma gliela cambi. Capito? Gliela cambi. Poi c'è che dura anche un anno, vero? Ma si c'è da 95 la batteria. Cosa? Ho detto che a Roberto Quadrato c'ha da 95 la batteria. Da 95? Si m'ha detto. No, aspetta, forse no, è l'M95 che l'ha 5 anni mi pare, non mi ricordo cosa mi ha detto. Ma questo io lo utilizzo poco e mi dura tanto la batteria, capito? No, vabbè, perché consuma la batteria, no, già dura la tua voglia, dura un bel anche, dura un bel. Questo qua è a posto, così sta di goccia, non so, mi viene male. Gappa, beh, adesso ti dico una cosa, adesso vado a fare la nanna, dai. Buonanotte. Ciao, buonanotte anche a te. Gappa, buonanotte.